Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che mette al centro della sua attenzione gli animali non umani e le loro relazioni con la nostra specie e con il resto dei viventi sul pianeta Terra. È la puntata numero 541 e sarà a chiare tinte ecologiste. Parleremo di oceani, di encicliche papali, di mercati cinesi e di laboratori di ricerca, oltre che di gastronomia eticamente orientata. La musica di Giuseppe Coco accompagnerà, come sempre, le nostre parole. Dedichiamo questa puntata a mamma Aquila, al meraviglioso rapace ucciso da una fucilata il 16 maggio scorso nei pressi di Brunico, in Alto Adige, mentre covava due uova nel suo nido. In un colpo solo, chi ha premuto il grilletto ha annientato tre vite e con ogni probabilità avrà esultato per la precisione della sua mira. La caccia in Alto Adige era stata riaperta 8 giorni prima, ma naturalmente non si può sparare alle aquile, la legge non lo consente. Perciò in questi casi si parla automaticamente di bracconaggio. Non possiamo però ignorare un'evidenza, e cioè che il bracconaggio è un sottoprodotto della caccia. Non tutti i cacciatori sono bracconieri, ma è ben difficile che un bracconiere non sia un cacciatore. Un'associazione locale, Naturtreff Eisvogel, ha messo a disposizione 1000 euro per chi avesse informazioni utili a identificare l'autore di questo gesto vile e orribile, che squalifica e deturpa l'immagine della provincia autonoma di Bolzano. Sarebbe bello se i cacciatori non bracconieri si dessero da fare per arrivare all'identificazione dell'autore dell'impresa e al suo disarmo. In attesa di notizie, tocca registrare attoniti quest'ennesima impresa di caccia. Nell'arco di poche settimane, e andiamo a memoria, abbiamo avuto la giornata mondiale della Terra, quella della biodiversità e l'8 giugno scorso la giornata dedicata agli oceani. Nelle intenzioni, queste giornate internazionali dovrebbero portare l'attenzione generale su temi importanti di grande interesse pubblico, affrontati però con distrazione dalle pubbliche autorità e in qualche caso anche dai cittadini. C'è il rischio che il proliferare di queste giornate produca un effetto di saturazione, e infatti molti reagiscono con sarcasmo o con sufficienza ogni volta che ne sentono parlare. Ma è anche vero che a ogni giornata si accompagna un flusso di informazioni che può essere prezioso. Stavolta, per esempio, la giornata degli oceani è servita a chiarire che lo stato di salute dei mari è davvero pessimo e anche, non meno importante, che una visione ecologica della salute della Terra è necessariamente plurale, cioè attenta alle connessioni fra un'emergenza e l'altra. Il surriscaldamento del clima, per esempio, ha un effetto sistemico importante e lo si vede anche parlando di mari. Come ha spiegato, per esempio, l'oceanografo del CNR Sandro Carnel in un'intervista con Alessandro Farrugia del Quotidiano Nazionale, la temperatura dei mari è cresciuta nell'ultimo periodo di un decimo di grado a decennio, producendo, dice Carnel, erosione e allagamento delle coste e l'ingresso del cuneo salino nei terreni costieri. Scaldandosi il mare diventa meno ospitale per alcune specie. Chi può si sposta, chi non può, come i coralli, muore. Carnel poi spiega che un mare più caldo favorisce anche gli eventi estremi. L'accoppiata mare e atmosfera produce uragani, tifoni e altre tempeste. Più un mare è caldo, più energia entra in gioco, più gli eventi sono distruttivi. E poi c'è il problema dello scioglimento dei ghiacciai, forse la minaccia più spaventosa, anche sul piano simbolico. Dalla Groenlandia si riversano in mare ogni anno 300.000 tonnellate all'anno di acqua dolce e fredda. Ora, dato che le correnti sono influenzate da temperature e salinità, dice ancora Carnel, questo fenomeno nell'Atlantico modifica la corrente del Golfo, che dai Caraibi raggiunge l'Europa. Ce ne sarebbe già abbastanza per disperarsi, ma bisogna aggiungere a questo quadro il tema dell'inquinamento sempre più spaventoso, in particolare per la diffusione delle plastiche e delle microplastiche. E poi ancora, la drammatica perdita di biodiversità e di vita a causa della pesca su scala industriale. Gli oceani e gli abitanti dei mari ci paiono normalmente lontani, complice la distanza dallo sguardo quotidiano, ma è lì che si gioca il futuro delle nostre società e della nostra stessa specie. In un'intervista al quotidiano La Repubblica, Maria Sole Bianco, autrice del libro Pianeta Oceano, appena pubblicato da Rizzoli, dice che ci vorrebbero una Greta e un movimento come Fridays for Future specificamente dedicato ai mari. È vero, saremmo in quel caso più consapevoli della cattiva salute degli oceani, ma è anche vero, come dicevamo all'inizio, che non è possibile parcellizzare lo sguardo, separare un problema dagli altri. Stiamo sfruttando e violentando il pianeta e i suoi abitanti non umani, a volte anche umani, oltre ogni misura, e occorre ridurre tutto. L'estrazione di risorse, le emissioni nocive, i consumi, gli spostamenti. Tutto il resto, ecco il messaggio che ci arriva anche dalla giornata dedicata agli oceani, è rumore di fondo. To be patient, and I told you to be fine, and I told you. tante giornate internazionali c'è anche una ricorrenza che vogliamo ricordare: i 5 anni dalla pubblicazione dell'enciclica papale Laudato Si, firmata da Francesco. Laudato Si è un testo importante e singolare che ha fatto storia. Non è stata la prima volta per un pontefice di esprimersi su questioni sociali e politiche attraverso un testo che lascia un segno nella cultura e nella politica. Basti pensare alla Rerum Novarum di Leone XIII nel 1891, agli albori del capitalismo, quando è cominciata, si può dire, la dottrina sociale della Chiesa. Laudato Si ha stupito e colpito nel segno perché la Chiesa ha fatto propria un'elaborazione più che trentennale maturata in seno all'ecologismo, in una critica serrata all'odierno capitalismo e alla società dei consumi. Una critica che è rimasta in questi anni di fatto esterna al mondo della politica, anche della sinistra. L'enciclica ha detto a chiare lettere che l'umanità deve pensarsi in connessione con gli altri viventi, in un rapporto di cura verso il pianeta e con l'obbligo per le società industriali di fermare la corsa all'estrazione di risorse non rinnovabili. Un'enciclica politicamente molto forte, molto esplicita. Lo stesso Francesco, nelle settimane scorse, ha in qualche modo celebrato i 5 anni dell'enciclica. È avvenuto quando, all'inizio della quarantena da Covid-19, si è presentato da solo in una piazza a San Pietro, deserta e sferzata dalla pioggia, e nel suo intervento ha ricordato che credevamo di poter essere sani in un mondo malato. Un intervento che ha segnato l'emergenza Covid-19. L'enciclica, è bene ricordarlo e riconoscerlo, non ha finora prodotto grandi risultati politici, né in termini di scelte operative da parte dei governi e nemmeno, a ben vedere, di mobilitazione civile. Per quanto sia stata l'enciclica di ispirazione per singoli gruppi e associazioni ben oltre il mondo cattolico, va detto in questo anniversario, dal nostro punto di vista e per indicare un chiaro limite dell'enciclica, che la Laudato Si non è arrivata a fare i conti con il costitutivo antropocentrismo della dottrina cattolica. Il pregiudizio verso gli altri viventi, l'eredità specista, sono rimasti l'ossatura dell'enciclica, con conseguenze ben visibili, per esempio, nell'insieme di proposte elaborate dall'associazione Laudato Si, formata da credenti e non credenti sull'onda del testo papale. In un libro pubblicato di recente, Niente di questo mondo ci risulta indifferente, a cura di Daniela Padoan, editore Interno 4, se ne ha la riprova nella parte dedicata agli animali, dove si propone, si chiede, a proposito della caccia, il rispetto rigoroso delle leggi esistenti, non il suo superamento, mentre su allevamenti e mascelle l'auspicio è quello di una maggiore attenzione al benessere animale e a una generica riduzione dei consumi di carne. Niente di più. Nemmeno ai più persuasi e più attivi, nemmeno a chi si fa interprete del messaggio di fondo della Laudato Si, si chiede di farsi esempio del mondo che si desidera, scegliendo uno stile di vita coerente, sul modello di Greta Thunberg, per esempio, che è vegana, non viaggia in aereo, agisce per ridurre quanto più possibile la sua impronta ecologica sul pianeta. Insomma, ci pare di poter dire che la lezione di Gandhi, sì, il cambiamento che desideri vedere nel mondo, meriterebbe d'essere accolta anche nel mondo che si muove attorno all'enciclica ecologista di Papa Bergoglio. Now if you feel that you can't go on, because all of your hope is gone, and your life's filled with much confusion, until happiness is just an illusion, and your whole world around is crumbling. Darling, reach out for me. With the love that will see you L'onda dell'emergenza Covid-19 continua ad animare il dibattito politico e scientifico. Da una parte c'è chi pensa sia necessario un generale ripensamento delle priorità collettive e degli stili di vita, dall'altra chi concepisce l'emergenza come un acceleratore delle proprie aspettative. E quest'ultimo è il caso dell'establishment scientifico, che cita l'emergenza Covid per attaccare scelte compiute 6 anni fa in materia di sperimentazione sugli animali. Stavolta va all'attacco la Commissione Salute dell'Accademia dei Lincei, secondo la quale il decreto legislativo 26 del 2014 continua a danneggiare molteplici aspetti importanti della nostra ricerca scientifica, per esempio rendendo difficile la collaborazione con colleghi stranieri di prestigio necessaria per ottenere fondi europei, scoraggiando il rientro da altri paesi dei ricercatori italiani più brillanti, rendendo impossibile la presenza in Italia dei laboratori preclinici delle industrie farmaceutiche multinazionali. Tutto ciò, dicono ancora gli accademici, provoca quindi effetti gravissimi anche a livello medico, in un momento particolarmente difficile per il Covid-19. La richiesta è di eliminare il decreto, in modo da semplificare la ricerca. Meno regole, insomma, in campo scientifico, sulla falsariga di analoghe richieste in campo sociale ed economico. Dal fronte opposto, quello di chi trae dall'esperienza Covid un insegnamento radicalmente diverso, arriva la voce della ONG Animalisti Onlus, favorevole invece a un avanzamento etico e scientifico della ricerca. Investendo tempo e risorse economico-scientifiche sull'innovazione tecnologica, dice Animalisti Onlus, sarebbe possibile creare uno scenario in cui vengano totalmente aboliti gli esperimenti su altri esseri viventi. Ciò che continua a mancare è la volontà di investire seriamente su una ricerca veramente scientifica che sia rispettosa della vita di tutti. Perché, si chiede ancora la ONG, si ignorano i grandi passi avanti negli studi di tossicità, così da ridurre il numero di animali coinvolti nelle sperimentazioni? Perché si ignorano i software capaci di riprodurre fedelmente il meccanismo d'azione di una sostanza nell'organismo umano per ampliare ulteriormente le possibilità di adozione dei metodi sostitutivi? A nostro avviso, conclude l'associazione, è solo il movente economico che mantiene in vita la vivisezione, un indotto che, numeri alla mano, supera quello prodotto dall'industria bellica mondiale. Insomma, siamo di fronte a una battaglia etica, politica e culturale che dura da tempo e che sta vivendo una fase incandescente, visto che viviamo un'epoca di potenziali grandi cambiamenti. Ancora a proposito di Covid-19, dalla Cina arrivano messaggi contraddittori. Da un lato le autorità di Pechino hanno rafforzato fino al massimo livello le norme a protezione del pangolino, l'animale che potrebbe avere fatto da intermediario nel passaggio del coronavirus dai pipistrelli agli esseri umani. Dall'altro lato è stata rinviata l'approvazione della legge che dovrebbe vietare la vendita e il consumo di animali selvatici, sospesa 3 mesi fa nel pieno della pandemia. L'Assemblea Nazionale del Popolo ha infatti aggiornato la sua seduta annuale senza adottare nuove leggi in materia, emanando invece una direttiva per studiare l'applicazione delle regole correnti. È un processo questo che potrebbe richiedere 1 o 2 anni, col rischio che nel frattempo il commercio e il consumo di animali selvatici possano riprendere, con tutti i rischi che abbiamo imparato a conoscere da diversi anni, visto che Covid-19 è solo l'ultima delle epidemie dovute a spillover, il salto di specie dagli animali selvatici agli animali umani. If you can summon the strength. Agli oceani, grandi malati del pianeta Terra, con un augurio di progressiva guarigione, è dedicata la ricetta della settimana di Gabriele Palloni. Il tosco vegan chef, autore del libro Cucina regionale italiana vegana, edito da Newton Compton. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. How did we get to this, Lord? How did we get to this? E per la giornata mondiale degli oceani non poteva mancare una ricetta a tema, ma senza crudeltà, perché si possono provare gusti freschi che ricordano il mare senza uccidere nessuno. Gli ingredienti per 4 persone per i ceci tonnati in vaso sono 400 g di ceci cotti, 60 ml di olio extravergine di oliva, 40 ml di latte di soia al naturale, un cucchiaio di succo di limone, mezzo cucchiaino di senape dolce, un pizzico di curcuma, un cipollotto fresco, il cuore di un sedano, mezzo spicchio di aglio, un cucchiaino di capperi, qualche rametto di aneto, la scorza di mezzo limone e una tazzina di aceto di mele. How did we get to this, Lord? How did we get to this? How did we get to this, Lord? Tagliate il sedano e il cipollotto fresco a rondelle sottili e lasciateli marinare nell'aceto di mele. A parte, preparate una maionese vegetale emulsionando il latte di soia assieme all'olio con un frullatore ad immersione. Unite la senape, la curcuma ed il succo di limone e aggiustate di sale. In una bowl schiacciate un terzo dei ceci con l'aiuto di una forchetta. Unite gli altri ceci interi e condite con la maionese vegetale. Tritate l'aglio ed i capperi finemente, assieme alla scorza di limone e all'aneto, quindi unite ai ceci. Infine scolate il sedano e il cipollotto dall'aceto e unite al resto degli ingredienti. Riempite dei vasetti di vetro con l'insalata ottenuta e decorate con dei rametti di aneto e qualche cappero. What have I become? Is that really me? Look what I have done. This is not who I wanna be. I gotta face myself. Gotta chase my soul. Gotta free my mind. Get back my glow. I got to go. Yes, I got to. Run, run, run, run, run, run. Run for my soul. I better go, go, go, go, go, go. Making sure I go slow. I got to run, run, run, run, run, run. Chiudiamo con un pensiero dedicato a un personaggio del quale ci occupammo molte puntate fa. È Arturo, il bisonte che conoscemmo con i nostri servizi sul parco zoologico di Cavriglia, in provincia di Arezzo, una struttura dismessa qualche anno fa, dove erano relegati per lo più animali esotici. La storia di zoo e parchi con animali prigionieri è una storia triste. E triste, seppur per altri versi confortevole, è stata la vita di Arturo, costretto in un ambiente non suo, lontano dai suoi simili. Arturo è morto nei giorni scorsi, all'età di 25 anni, nella fattoria marchigiana dove era stato portato. Salutiamo Arturo con l'auspicio che gli zoo diventino presto un mero ricordo del passato. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento, come al solito, è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.